dei delitti e delle pene. Per noi cittadini degli anni 2000, figli del progresso scientifico, abituati a ogni genere di comfort, capire come doveva essere la vita di un individuo nei secoli passati richiede una certa dose di immaginazione. Nel Medioevo, anche gli abitanti di una città come Bologna, progredita sotto molti punti di vista, avevano abitudini che possono risultare persino sconcertanti. Un esempio? Lo spettacolo delle condanne a morte. Non era raro, infatti, uscire di casa e finire per imbattersi in una esecuzione pubblica. Come narrato nei racconti storici dell'Ottocento estratti dall'archivio criminale, a Bologna c'erano varie località tristemente conosciute per ospitare le esecuzioni. Agli accusati di tradimento, ad esempio, era riservata un'area nei pressi del Ponte di Reno, dove costoro venivano stretti per un piede, proprio come raffigurato nella carta dei tarocchi dell'Appeso, e lì lasciati morire. Con questa pratica ci poteva volere anche molto tempo per spirare, e il sangue che confluiva alla testa lasciava il condannato cosciente fino alla fine. Il principale patibolo cittadino, tuttavia, dal 200 all'800 fu proprio Piazza Maggiore, all'epoca conosciuta come Piazza del Mercato. Da qui era possibile assistere alle condanne a morte proprio come se si trattasse di uno spettacolo. Uno spettacolo crudele, le cui testimonianze ci giungono dalle cronache cittadine. A partire dal 600, infatti, gli atti del podestà stabilirono che le esecuzioni fossero documentate con un dipinto. Grazie a queste raffigurazioni, accompagnate dalle descrizioni dei cronisti, sappiamo ad esempio che tal Junio da Parma, di professione calzolaio, fu condannato per aver abusato della figlia. Fu quindi vestito di una pelle d'asino e trascinato a coda di cavallo fino al mercato ed ivi appiccato, poi squartato e finalmente arso, sperdendo nelle ceneri al vento. Ci furono periodi in cui la frequenza delle esecuzioni capitali era così alta che nel 1445, non essendovi più abbastanza forche, il magistrato ordinò che gli impiccati venissero appesi direttamente anche alla ringhiera del palazzo del podestà. Da qui nacque una leggenda. Si dice che la zarina, moglie del boia che su quella ringhiera eseguiva le condanne, impietosita, si premurasse di abbellirla con fiori e piante. Finire nel giardino della Lazzarina, da quel momento in poi, significò essere condannati a morte. Merita un approfondimento il tema della giustizia nella Bologna medievale. Commettere un reato all'epoca significava il più delle volte andare incontro a pene severissime. Dalla caduta dell'Impero Romano, infatti, si erano affermate nella penisola delle consuetudini di origine barbarica. E i barbari, si sa, quando si trattava di giustizia, non andavano particolarmente per il sottile. La notifica di un reato avveniva tramite un messaggero comunale, il quale, recatosi a casa dell'accusato, dopo aver squillato la tromba, annunciava a gran voce il mandato di comparizione presso la magistratura. Nel caso degli studenti, la comunicazione sarebbe avvenuta in un'aula in cui erano stati preventivamente riuniti gli altri studenti e i professori. Per giustificare un processo a carico di qualcuno, non erano necessarie prove particolari, ma era sufficiente che la magistratura venisse in qualche modo a conoscenza del reato. Una delle possibilità era che pervenisse una denuncia entro un mese dal fatto. In questo caso, naturalmente, l'eventualità che si trattasse di una semplice delazione era concreta. La durata di un processo era in genere meno di 6 mesi, e a occuparsene erano i giudici della Curia Maleficiorum, con sede nel Palazzo del Podestà. La fase iniziale era chiamata Inquisizione, e questo riguardava sia i reati di natura religiosa che non, che consisteva in un'inchiesta al fine di raccogliere prove e testimoni. La prova più importante era sempre la confessione, e per estorcerla la magistratura non esitava a ricorrere alla tortura, ma solo per i crimini più gravi, come l'omicidio o i reati contro la comunità. Era considerato molto grave, per esempio, lasciare incustodite le porte d'accesso alla città, facilitare in qualunque modo l'ingresso di forestieri ostili o cospirare contro le istituzioni. Erano questi i casi in cui la pena era generalmente la morte. Ma attenzione, come vedremo tra poco, c'era modo e modo per infliggere la pena capitale, a seconda della natura del reato. Anche nel caso di furto non si andava tanto per il sottile, dato che i ladri erano così odiati che era permesso seviziare il colpevole da parte delle sue vittime. L'interrogatorio dell'imputato avveniva alla presenza dei magistrati, di 6 membri del Consiglio degli Anziani, l'organismo preposto al governo della città che durante il dominio del papato era affiancato e spesso esautorato dal legato pontificio, di 4 ufficiali della Guardia Comunale e di un notaio, il cui compito era redigere e autenticare il documento di confessione. In questa fase l'applicazione della tortura era considerata ut reperiatur veritas, ovvero finalizzata alla ricerca della verità. Si trattava in sostanza di semplice, ordinaria amministrazione. Erano esentati dalle sevizie corporali tuttavia i minori di 17 anni e le persone che avevano superato i 70. Il sistema più comune era il supplizio della corda, che consisteva nel sollevare l'imputato tramite una fune a cui erano legati i polsi, per poi lasciarlo cadere di colpo, col risultato pressoché inevitabile di provocare la slogatura degli arti superiori. Prima di stabilire la pena, venivano ascoltati i testimoni, e ovviamente era sufficiente avere fama di malfattori per essere giudicati colpevoli. E a tal scopo erano avallate anche le dicerie, i pettegolezzi, insomma. Vigeva infatti la regola per cui qualcuno poteva essere considerato reo per veritatem vel famam publicam, ovvero se era comunemente riconosciuto come tale. Nella maggioranza dei casi la condanna risultava nel pagamento di una sanzione pecuniaria, che si inaspriva nel caso il condannato si rifiutasse o non fosse in grado di provvedere entro il tempo prefissato, in genere una decina di giorni. Attenzione, perché per un condannato a una pena pecuniaria, a seconda della somma dovuta e non pagata entro i termini prestabiliti, c'era una sorta di tariffario in cui a ogni somma corrispondeva una differente punizione. Tanto per cominciare, la somma poteva essere raddoppiata. Era poi prevista la fustigazione in pubblico e sulla nuda carne, il taglio di un orecchio fino al taglio di un piede per le somme più alte. A quell'epoca era possibile essere banditi dalla città. In questo caso il reo doveva abbandonarla entro l'alba del giorno successivo alla sentenza. Era questo il caso, per esempio, di coloro che venivano sorpresi ad alterare documenti del comune o coloro che prendevano le difese dei traditori. Altre pene cui si poteva andare incontro erano il trascinamento per le strade legati a un cavallo per i rivoltosi e l'amputazione della mano destra per gli spergiuri. Poco sopra abbiamo introdotto il tema della pena capitale nella Bologna medievale. Veniva in genere applicata per i cosiddetti crimini enormi e, a seconda della natura del reato, prevedeva modalità diverse. Era questo il caso dei crimini di natura politica e le pratiche religiose in sospetto di eresia, oltre che, naturalmente, gli omicidi. Ma attenzione, solo quelli che non rientravano in una logica di vendetta, la quale era piuttosto tollerata, persino regolamentata dalla giurisprudenza dell'epoca. Erano condannati alla pena capitale anche i colpevoli di rapina o di estorsione e i ladri recidivi, così come coloro che avevano appiccato un incendio, i falsari e chi si era macchiato di sodomia con le aggravanti di rapimento e violenza. Le modalità erano in genere la decapitazione, l'impiccagione o il rogo, seguendo un criterio quasi di contrappasso in relazione al crimine commesso. La decapitazione era considerata la forma più nobile di esecuzione, dato che coinvolgeva l'uso di una lama che richiamava l'ambito cavalleresco. Era in genere riservata ai colpevoli di omicidio o di crimini contro le istituzioni. A Bologna le decapitazioni venivano effettuate fuori dalle mura, nella zona della Montagnola, un tempo fuori porta, che sorge proprio sopra un antico cimitero di condannati a morte. Diversa la valenza simbolica dell'impiccagione, considerata degradante per il condannato, poiché il cadavere rimaneva esposto al pubblico. Finiva inevitabilmente per coinvolgere il più delle volte le persone di estrazione modesta, i cui reati erano in genere il furto e la rapina. Non mancano esempi di colpevoli di reati che prevedevano la decapitazione che sono finiti impiccati proprio a causa della loro bassa estrazione sociale. Per quanto riguarda il rogo, era ritenuto purificatore nel caso di reati come l'eresia, la stregoneria o la sodomia, che si credevano in grado di suscitare l'ira divina, ma veniva applicato anche ai colpevoli di incendio, per analogia con il reato, e ai falsari, ai quali venivano anche distrutte le proprietà immobiliari. Da recenti analisi degli atti giudiziari medievali emerge tuttavia un dato sorprendente. Di tutte le condanne emesse, solo una frazione, pari a circa un quarto, veniva effettivamente eseguita. Il motivo? Il più delle volte l'imputato riusciva a darsi alla fuga prima del processo. Ma c'era anche chi riusciva a ottenere una riduzione della pena o negoziare una conversione. A volte riusciva persino a beneficiare di un'amnistia. A finire effettivamente sulla forca, nella maggioranza dei casi, erano pertanto i nemici politici, gli emarginati o gli stranieri. Queste considerazioni suggeriscono come l'applicazione della pena capitale, nell'età comunale e successivamente in quella signorile, avesse un carattere prevalentemente ammonitorio per la popolazione e fosse principalmente usata come strumento di consolidamento del potere. Come nota conclusiva, si menziona che, a partire dalla seconda metà del XIV secolo, iniziarono a sorgere confraternite che si dedicavano al conforto dei condannati a morte, allo scopo di permettere una buona morte, ars bene morendi, e persino difendere il cadavere del condannato concedendogli la sepoltura che le consuetudini dell'epoca gli negavano. Una di queste era la Confraternita della Morte, e avremo modo di riparlarne. La loro opera di assistenza iniziava con la preparazione spirituale del condannato, continuava con l'accompagnamento al patibolo e terminava con la sepoltura del corpo.